principessa un dispaccio ufficiale vi consiglio di sospendere la festa. È un attentato.

che porrà il piretto è bravo. Ma lei che infame! Che dice? Ti attendo stasera alle 9. Hey! Hey! E voi? Non credo più. Ho rinunciato al mondo. Non va venire a noia. Che la bella natura. Diretta a mia Parigi. Loris, ritorno presto. Subito, arrivederci. Chiacchierò. mi cor contessa, qua giù tutto finisce e tutto ricomincia. Non è la prima volta e l'ultima sarà. L'amore Eugène mi posso, se ne viene per andarsene, so un rapimento. Come? In bicicletta. Bravo, ne devo reggerò con le stelle. Testolina sventata. Principessa, non son venuto qui per lei. L'amate molto. madre, muto el fratello. E con dispaccio è di mio fratello al cerco. No, di Borov. Alla grazia! La tua grazia! Figlia mia! Abbia a cantare, a buon fratello, a dolce casa abbandonata, a patria. Qui saluto, mi è concesso a dir, e tu mi seguirai. Ora mi abbuffati la sorte ancora di vivo, farò fieri alla Parigi oggi stesso, chi sarà forse giunto, che fai smemorato mi scordavo delle lettere. E ti darò precedente questa lettera in dispaccio. Confession tua stessa insieme al nome dei complici, i miei complici. Chi sono? Valeriano, mio fratello, lui, o quale infamia? Quella lettera è scritta da una rossa dimorante a Parigi, segnò col nome di battesimo. Ma la scoprirevo, dire che non la lettera, conoscerò la mia nemica al fin. Iariskin, resto comandò di tuo fratello, Valeriano restato. La fortezza, il fossato, nella notte affogata, mia madre, mia madre, madre mia. La donna, la maledetta spia che mi segue sempre ovunque, alla breva colei perché ed ora da me ti scosti, con me. Parigi, Ardiana, Perica, Parma, Astia, la maschera destra sarà. Io non lo difendi. Se quella sciagurata perdutamente avesse amato, non è vero, tu mi uccidi il suo diritto, tu odia, e non ti lo perdono. Che le avevan fatto mia madre e mia fratella. Forse non te li piange, forse per essi prega nella sua cieca rabbia e nel suo io non voglio che muoia, non voglio che muoia, non voglio la parola in nome del ciel. Troppo tardi.这里是歌舞剧场，今天我们欣赏的是意大利作曲家乔尔达诺的三部歌剧《费朵拉》，由莫纳科·费比沃、 高比卡布奇利等演唱，意大利蒙特卡罗歌剧院合唱团乐团演出。感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Stasera alle nove. Io mi domando ancora se chi mi parla, se oh.